intorno alle 10, circa 10, c'è qualcuno? Facciamo perdere. Esagerando, andate allora. Meglio il lavoro. Adesso ho fatto un colloquio, sto quanto, speriamo che vada tutto bene. Meglio così, vedrà che già va bene. Sempre in questo settore qua, quasi al marca. E vediamo bene, vediamo un po'. Infatti. Vedi? Speriamo che sia così. 8 ore al giorno? No, sono 6 ore al giorno e poi la paga anche di più. Meglio così, meglio. Almeno così non stai lì a perdere tempo con quelli lì. La strada è un po' più lontana, ma non mi interessa. Tanto tirano la cosa carburante, tirano ogni mese spesa carburante. Ci devo uscire a Crimbole però, troppo lontano, vabbè, si apre le luci. Ti vede un alloggio lì, quando c'è il riposo vieni qua. No, il cazzo, sono una settimana lì, il cazzo e poi sono 50 km, 50 km si possono fare, sono... Allora, 100 km andato di torno. Ma sono pesanti, mi fate ogni anno, hai compreso? Già lo so, cosa vuoi fare? Però non è ogni giorno, dai, sono due giorni diversi i servizi, capito? Non sono sempre in quel punto lì. Ah, ogni giorno cambia allora. Facciamo 2 giorni lì, 2 giorni da un'altra parte, 2 giorni per dire a Visiglio. Ah, e allora già va bene. A Puglia, se così già va bene. E poi lì lavori in coppia, non lavori da solo. No, lavorate in coppia, lavorate. Allora vuol dire meglio. Mangia la metà da uno con l'altro. È meglio sì. No, va bene, adesso vediamo un po', speriamo che vada tutto bene. Se rimanda a far cura lì. Infatti. Meglio così. Infatti già è così, è meglio. Adesso stavo chiamando Gio Maria, boh. Gio Maria è da gennaio, da fine gennaio che non entra. Ma l'ha saputo? L'ho saputo da gente, però l'ho saputo a ritardo. Però lo stavo chiamando che non per dare le condoglianze e tutto quanto, ma non mi rispondeva. Non potevo andare neanche lì al funerale, che cazzo stavo lavorando. Io quando c'era il funerale io ero... Ero con mio nipote alla palestra e non ci sono potuto andare. E gli ho mandato l'indomani, gli ho mandato il messaggio con le condoglianze. E non mi ha risposto neanche a me. Io volevo passare a casa sua, guarda, ma non sono passato alla radio di Turbavo e non sono passato neanche a casa sua. Quindi l'ho chiamato, ma non mi ha neanche risposto. No, io non ho più sentito nulla. No, io sono da un po' che non sento più. Mi sembra che l'ho incrociato, cosa sarà, 2 giorni fa, che stavo andando a lavorare, l'ho incrociato lì alla via Pascoli, dove c'è il passaggio a livello. Cosa era, con la figlia? Da solo era, da solo, stava lasciando la vostra casa sua. Ma in macchina? Via. No, non ci incrociava ancora a nulla, io credo che era... non lo so, non sta più entrando. Evidentemente sta facendo ancora commissioni, ma butto, io mi stanco che domani mattina a casa me ne devo bisacchino. Mi devo alzare alle 5 anche domani. Mi ha fatto piacere sentirti. Se senta Gio Maria, dillo che lo stavo sempre chiamando, ma non rispondeva. Dai, ci sentiamo, tu. Ok, Emanuele, alle prossime. A risentirci. Ciao, fammi bene. Ciao. Perché? No. Non rispondi. Che fischia! Ciao Gio Maria, il titolo. Oh, ciao, buonasera. Ho provato a accendere stasera, per un po'. Già sto facendo bene. C'è la voglia che sta facendo bene. Aspetta. Sempre uguale. 9:10. Buonasera, signor Gio Maria. Non ho toccato. No, mi avevo voglia, mi ho annoiato, mi adesso ci sta per un po', se funziona ancora, ho visto già funziona allora. E ho voglia che funziona, mica è da dottore anche. Allora, dottore. Buonasera, signor Gio Maria, ciao Antonello. E allora, Gio Maria? Buonasera a te. Sono passato ancora, no? No, piano piano. Si va piano piano. E c'era Emanuele che ti stava cercando. E quando? Quando tu? Poco fa, 5-10 minuti fa, era all'apparecchio. Ma quando ce lo senti, dagli tanti saluti da parte mia, mi ha detto. Grazie a te. Il mano ha acceso adesso, quindi mi ero annoiato, e ho voluto provare, dai, ma non ne voglio, ecco, dai, magari più là piano piano accenderò la sera, 5 minuti, non ne voglio, capito, ecco, comunque ringrazio Emanuele. Ciao Antonio, ci sentiamo, dai, buon proseguimento, ciao da Piattetto. Buon proseguimento, ci sentiremo magari più là, vai. Ok Gio Maria, ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao Gio Maria, stammi bene. Avanti Antonio. Ciao Gio Maria, stammi bene, saluto me. Alla prossima non c'è problema, già siamo qua. Cioè per lo meno ci sono anche oggi. Perché non stavo facendo niente subito, questa la mattina vado a farmi qualche lavoretto per non annoiarmi e passare il tempo, e poi facendo l'apparecchio qualche volta, ci potrebbe essere russa che altro qui, e ecco gli americani, avanti Tore. C'è così, Antonio, purtroppo, ma non ce n'è buia, non si può andare da nessun luogo. Ma non sta uscendo questo qua, sì. Ah, voglia che sta uscendo bene. Sì, perfetto. Il segnale è anche di radio. Aspetta un attimino che cambio apparecchio, che voglio vedere se va bene, perché l'ho dovuto mettere un po' a posto l'altro. Aspetta un attimino che cambio apparecchio e ti chiamo. Aspettati. Io sono qua già, sei 9:15 comunque di segnale. No, non è questo, sto provando l'altro apparecchio. E attacca l'altro, dai. Vediamo un po' come ti ascolto. Antone, guarda a vedere. Prova un po'. Bene, sta uscendo. Non so se si abbassa questo o sempre lo stesso. 9,5,6, sei più basso di quello di poco fa. Più bassa? Sì, sì. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Boh. Perché l'ho aumentato di che cosa l'ho aumentato? Era 3 e l'ho portato a 5. Ho portato. Ah, vabbè, per quello non ti dà quanto sembra. Tu immagini che io dall'RMS 200 al 3009 c'è poca differenza. Il 3009 esce meglio però. Vabbè, nell'RMS 200 c'ho il microfono normale, invece nell'altro c'ho l'amplificato e quindi non pare più. Devo fargli la modifica del watt e poi eccetera eccetera. Poi devo cercare lo smith a caso, che questo c'ha lo smith che non funziona. Io penso quello dell'FM500S, ma è leggermente più grande, quindi io l'ho messo così provvisorio fuori. Io l'ho messo. Adesso vedo un po' se riesco a recuperarlo, lo smith è il suo, se no prendo di quelle monete piccoline, faccio il taglio nella lamiera e ce lo infilo così. Ah, e adesso basso, io ho sempre lo stesso. È aumentato un po' di radio, però il segnale è sempre uguale. E boh, non riesco più a comprenderlo, qua mi sta dando 10... 15 watt mi sta dando. Come stai regolando il watt dall'interno? Perché l'ho aumentato di... era a 3. A 3 mi si è abbassato di colpo la radio. Allora l'ho preso, l'ho messo di coso, l'ho aumentato di potenza, l'ho aumentato. A vedere se c'era da qua. Se le metti la potenza, cerca il frame dell'LC, dell'MC e dei aumenti, e così esci di più di potenza, capito, di radio. Boh, non riesco più a regolare un minuto, sta ragazzo ha giuducato e non riesco più a regolarmelo. Ma allora c'ha il menu, c'ha, di quella parecchia che c'ha il menu di quelle nuove. Sì, ma mi sa, ti me lo posso indirà. Me lo voto, è troppo complicato, ma in me. Se me lo voto in dirà, me lo voto, me ne invito un altro. Se c'è il menù, allora dentro non si può toccare nulla. C'è poco da toccare, devi fare tutto dal menù. Quando aumenti la potenza deve aumentargli anche la radio, quindi a un certo punto. Se non ti dà più di tanto, fate un insulto, te ne prendi un altro di apparecchio diverso, che sia bello, sì, non c'è tanto un canale, magari, eccetera, eccetera, e che ti dia soddisfazione che esca forte. Ma io penso che ci sia qualche cosa da rimettere a posto. Entro nel menu, devo guardarmelo, i fulmini mi devo guardare. A toccare qualche cosa. A meno che, vabbè, a me mi è capitato di comprare un apparecchio quando c'era il Covid, ho pagato 60 euro, quando l'ho provato a casa sembrava che fosse, avesse preso un asino a posto di un apparecchio. per carità, non c'era verso di cambiarlo, l'unica cosa che potevamo mettere c'era un M300, capito? L'unico microfono che andava bene che riusciva a pompare, poi infatti, quando sono andato a mentarli da 5 a 15, boh, se ne è parlato dei radio, se ne è parlato, poi non mi dava più i canali alti, avevo preso e immediatamente l'ho rimesso normale, ho preso e l'ho regalato, quell'apparecchio lì, l'ho regalato un alimentatore, quell'apparecchio e l'antenna a canale a pesca gli ho dato, il cavo. Perché non lo potevo più vedere con l'apparecchio di qua, per carità. Ho detto non lo prendo più perché del genere. Pucci. Ma vabbè. Devi ti rodinimmo così, ti rodinimmo. Vedo che sta andando bene qua, sta uscendo bene. Ma un cavolo ne so. Lui si prova solo avvicinati la bocca al microfono. Capito? Avvicinato, troppo mi sono avvicinato, a 50 centimetri sono. Avvicinati ancora di più? Guarda a vedere adesso. Adesso va meglio, a me non ti sento. Di radio. Qua fa sembravi dall'autotomba, sembravi. Aspetta, ti stacco una cosa. Guarda a vedere adesso. La radio è uguale e il segnale è sempre quello, 9.5. Ho messo lì, non so se amplificatore P, forse quello lì. Cioè, avevo attaccato l'amplificatore, poi diviso tunnel, canale, poi no, give shifter. Dite su bubo fa un bel di gosa, però non esagio. Dico bene cambiato che l'apparecchio gira, venditelo. E te la pigliamo l'inverso. Già ci sono quelli, ormai ne vendono tante di quelli in giro, ce ne so. Ma io sono costa un po' garido, vabbè, queste cose sono un po' di soldi, se non vende è utile averlo. Sì, me lo pongo in coso, guardo sul sito dei radioamatori, lo metto, e vedo se riesco a vendermelo al prezzo che l'ho pagato. Sì, vedi un po', se riesci a venderlo così. Ho visto altri al prezzo più alto di questo che ho io. Ho visto altri venivano molto di più. Ah, cos'è? Il CV 3007, quando avevo sentito, quelli che stiamo facendo adesso, che sembra una specie di 3009, sembra. Oh, vabbè. Già andava in uscita. Oh, cappetto. Sì, ci vuole microfonia, ci vuole. Cos'è? Sì, ci vuole un microfono amplificato in quella apparecchio lì. Poi non è che sta pompando questi tanti watt, è riuscito meglio poco fa con quell'altro, vabbè forse l'altro è simile al mio. Aspetta, attacco l'altro allora, dai. Attacchiamo l'altro, aspetta 2 minuti. E io ho quei occhi. Avanti, chi è? Male, se c'è la novità, segnale 9.10, l'aria è tutta gracchiante, è bassa. E ok, io l'ho vinto, già siamo qua, se ti serve qualche controllo basta entrare. Sono rientrato. Adesso sei una cosa, quasi 9.20. Più potente di tuo. Te lo credo. Non so cosa abbia preso a quello lì. O era un microfono che non andava. Non è solo il microfono, c'è una bella differenza di segnale. Capito? È come se avessi attaccato 100 watt con una baracchina da 5 watt in pratica adesso. Ah, avanti. Ma io sono già solo bruciato. Non le interessa entrare. E magari stava provando se ce lo sentivamo. Ha detto che c'è solo fischiare. Ah, se c'è solo fischiare, allora pazienza. Brucia lì, dai. Perfetto, sta funzionando un momento adesso. Una passata di fondo. Piena tutte macchine. Sì. E aspetta Antonio, che sono al telefono. Va bene, già sono qua. E poi la base di 2040. Che sono il telefono accanto? Ho capito. Ehi, fischia, dimmi. Ebbene Antonio, buonasera, ben alzato. Ehi, ciao, cazzo ben alzato. Sono sveglio stamattina alle 8, sono sveglio. La signora come sta Antonio? Sta aumentando di peso, con quegli affari che gli ho comprato. Con quelle pastiglie, come si dice, quelle che servono per ingrassare. Si sta riprendendo piano piano, dai. Sì, adesso si sta riprendendo, adesso puoi fare una tappa medica, cioè la prossima settimana di controllo e così vediamo come va. E le sigarette, buttate via le hai? Ho voglia, non le sta più fumando sigarette ormai. E la una, meno male, meno male, che sono quelle che la stavo ordinando, ok? Sono quelle, non c'è niente da fare. Come oggi sei tutto pimpante, sì, è una bella radio, forte. Che l'altro giorno l'ho smontato, mi ha fatto il difetto che in pratica dopo un po' spariva l'audio, spariva. Ho dovuto aprirlo e ho pulito col fondo, dove c'è la ventola. E poi ho preso, l'ho richiuso e gli ho messo le viti. E ho visto che... un sistema in modo da proteggere l'apparecchio sotto quando non lo uso. C'è una bella modulazione. L'ultimo passaggio è stato insieme alla macchina di solito importante, magari non stavi parlando, comunque l'ultima di segnale si è per subito 9:18 per la radio 5, bella pimpante, l'ultima. Guarda il segnale mio com'è, vabbè, ci sei per subito. Sì, 9:20, modulazione 5. Attaccata alla ventola, questo poco si intende. Già va bene, già va bene. Come sei, solo al suo letto? O c'è qualcuno? C'è l'attore. Attenzione squalo! Attenzione squalo bianco! E magari sta facendo cosa, magari è impegnato. Bene, via. Comunque tutto a posto, interessante che sta migliorando la signora, vabbè. Ah, quello sì, meno male, meno quello, sono contento. Una volta che si rimette a posto, almeno esce, la porta a fare le passeggiate, a bersi qualcosa, eccetera, eccetera, capito? Per forza, non si svaga, con noi si svaga, non può rimanere sempre chiusa, capito? Allora esce tranquilla, serena, la testa è più tranquilla. Basta che non tocchi le sigarette e lì è a posto, capito? Bene, vediamo se c'è Tore non cammina, avanti Antonè. Tore, mi hai trovato quel bianco che sono al telefono, evidentemente stavo parlando con qualcuno, senz'altro. Magari prenderà dopo. Perché io come fare l'acceso, poi c'era gente, ma lo sentivo molto basso del radio, molto basso del radio lo sentivo. Anche io l'ho sentito basso del radio, vedete. Perché ho detto, sono io, ma è molto basso. Anche il segnale è a 9.5 e lui arriva sempre a 9.15 più o meno, dai. Lasciamo stare il segnale, ma la radio è molto bassa. Da parte mia, qui da me, poi non so da te, si arrivava tranquillo e la modulazione era bella forte, ma qui è molto bassa. No, stava arrivando bassa anche a me, comunque. seconda pure ha attaccato l'altra parecchio e è arrivato molto più forte. Tutta un'altra storia era. Esatto. Vediamo se c'è squalo bianco. Squalo è impegnato. Bene, avanti Antonio. Zap. Già va bene. La carità. Oggi c'è una freschetta, Madonna fuori. Stiamo bene avanti ieri. C'era un po' di calduccio almeno, 15 gradi. E calduccio stasera, poi è stato un po' di abbassa la temperatura. Io ho portato mio nipote a scuola a calcio, ma ero fuori, anche mi toccato scendere in macchina perché c'era fresco, la temperatura stava abbassando, capito? Loro, i ragazzi erano tutti sudati, le vedevo proprio la bacia a lui, era abbumata, ma si stavano scaldando, dunque già va bene. Ma io avevo freddo, mi sono venuto in macchina. E vabbè, è tempo suo, siamo febbraio, non ci possiamo lamentare sinceramente. Ah, quello già è vero, lamentare non ci possiamo lamentare, almeno siamo, si sta bene ogni tanto. Sono dei giorni che c'è freddo, dei giorni che va bene, e anche la pioggia più che altro, che capito, con l'umidità. L'altro giorno sono uscito avanti ieri, anche di mattina alle 8 del mattino, c'era una bella passata di brina, poi è cominciato ad esserci caldo, un po' di cappone, e poi la sera è cominciato a rinfrescare. C'è stato un giro, mi sono fatto da Fusaro a GBC, non va nulla, stiamo cercando uno Smithson. La tagliata l'MS200, ma non sono uscito a trovarlo. Con il loro FM500S è leggermente più grande, adesso vedrò di comprarmi tra 15 giorni per quella specie di molette piccoline, e gli faccio il taglietto e gli allargo il foro per metterci lo Smith, così gli prendo questo Smith qui dell'FM500S, esatto, è quello ormai, non ce l'ha più nessuno in giro, almeno questo Smith funziona. E stavo dicendo, quale stai usando? Il K o quello piccolino? Ah no, il K. Il K, e come ce l'ho io il K, allora. Come ce l'ho io il K, già va bene, segnale subito, buono. Già va bene questa antenna, dai, per come costa già va bene. Adesso vi metto il microfono amplificato se funziona ancora. È solo un giorno che non lo uso. Allora, c'è spostare il lineare, quello piccolino, e dopo mettergli in salerta, vediamo se funziona. Sentiamo il vento, per scaldarmi, aspetta un attimo che la spengo, se no me la porta appresso questa verga. Il minuto. E fai. Attenzione squalo, a te risposto mi prendo una bottiglia d'acqua, dai che c'ho la bocca asciutta. D'accordo, già sta uscendo il microfono quando sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E già sta uscendo, dove si passa un pochino. Che bomba il microfono. Con questa ce l'ha fatto. Lo suite è pericoloso, ma ne aveva manco morto ce l'ha fatto. La fusa non c'ha più niente. Bisogna che me la faccio ordinare da fuori, così almeno sono a posto. È troppo forte, capito? Per le chimie è troppo forte. È un bel microfono, ce lo so. Esce forte, esce. Esatto, oltre un attimino vuoi prendere un bicchiere d'acqua. Va bene, già sono qua. Ti sto arrivando Antonio, sto provando un ICOM con l'Adonis, bene va. E a voi, se non vedete di segnale, radio 5 è perfetto. Una bella modulazione, chiara. Bella modulazione. sto regolando perché 10 metri no, non c'è nessuno, per i 10 metri, se mi dici che la modulazione è buona. Sì, c'è una bella modulazione, bella radio, c'hai. Chiara, chiara, giusto proprio. Amplificazione ce n'è, va bene. Sì che c'è. Ho visto, va bene. C'è anche potenza, non l'avevo vista, 50 watt. Già va bene, vabbè, ma la treni a 100. È un 575 della ICOM, va bene. Ciao, bello, beh, tieniti conto, grazie del controllo. Ciao, grazie, Clara, niente. Non c'è problema, già ci vediamo. Ok, stavi bene. Ciao, ciao, e già ci vediamo spesso, noi già siamo vicini. Ciao, un abbraccio Antonio, alle prossime. Sono ventrato, ciao Claudio, non stavo neanche riconoscendo. Abituato a venire qua quasi a fondo scala, si è calato di parecchio. 9.5 qui stai arrivando Claudio. La modulazione è ultima, sempre la tua. Ciao Mari, un abbraccio anche a te. Io sono lontano da Sassari adesso, circa 6 km di linea d'aria, e non è che sono più in montagna. Sono molto alto, però sono un po' coperto dalle collinette, non lo vedo Sassari, capito? Ma non è un problema. Non sto più modulando il 27, quindi non mi interessi più di tanto, basta arrivare per salutarvi ogni tanto. Ciao Maria, che mi seguo il controllo di Antonello, che sto provando una radio di 10 metri. Un abbraccio grande, ciao! Ciao Claudio, tutto ricambiato, ciao. Mi ha fatto piacere sentirti, da, sono tu in casa, benissimo. Avanti, Antonio. Ehi, accappa. Andava bene, c'era pensato a qualcuno per lui che voleva entrare, si aveva chiuso il ginto, boh. E non avrebbe sembrato, avanti chi voleva entrare. Mi levato adesso. Beh, vediamo se c'è Tore. Tore. Ero al telefono, signor Marì, buonasera. Ti do 2 minuti e poi sto chiudendo. Ok. Ciao Tore, ben ritrovato, ben ritrovato. Ci sono poc'anzi. Ma non mi piace nulla, la radio è molto bassa. Non è la radio tua questa. Torna con chi tu... Questa è la radio, Ho capito Tore che ero distratto. Ho già detto, come radio è molto bassa, anche a quel giorno ero in ascolto e ti ascoltavo proprio radio proprio bassa bassa. Ma ora invece a comprenditi. A te arrivo bassa, Antonella arrivo voci. Ho detto che stai usando la radio molto bassa. Ti ascolto molto basso di radio, ho capito? Non adesso no però. Poco fa quando stava provando quel baracchino, Tore. Comunque c'è anche chiudo l'originito, forse non lo sentite. Aspetta che ve lo rilancio un attimino avanti, chiudo l'originito per Tore e Marino. Ma a te Antonella, come sto arrivando? Oh, Tore, io qui per ti ascolto la radio bassa. Secondo me, boh, non lo so. Vediamo Antonello se ti ascolta bene. Io per me, confronto a prima, ti sei abbassato di parecchio. Ma guarda, io non ho toccato nulla. Non ho toccato, quindi non può essere che... Cioè, arrivo bene da Antonello. Non è problema mia. No, confronto a prima, arrivare tranquillo. Scusa, con la radio Antonello mi tocca, mi tocca abbassare, che è troppo forte Antonello. Tu invece mi tocca salutare il volume qua, figurati. Va bene, dai. Allora, Antonello. E avete cazzicato anche l'argento di Muros, ma già avete sentito. Allora, che l'argento con quel 23 canale sta facendo bene. Sei perfetto adesso. Ok, boh, lo so. Bene, avanti, Tore. Ci risentiamo alle prossime, ok. Ciao a tutti e due. Ciao Antonello, ciao Marino, statemi bene. Che sto chiudendo. Ok, ciao Tore, ben sentito, dai. Saluto in casa. Avanti, Antonello. Antonello, per saluti, Antonello. Ciao, che la gente ci sentiamo, sta bene, alle prossime, già stai andando bene adesso. Avanti Marino. Ok, dai. Tua sorella, tutto a posto, sì? Sì, tutto a posto. Dovrebbe essere in giro stasera, oggi lunedì dovrebbe essere in girella. Ok, dai, meglio così, dai. Meglio così, adesso sto contento, dai. Bene, bene. Bene. Molto bene, mi devo spostare, mi sta chiamando il mio nipote. Ci sentiamo dopo se è in caso, dai, già ti chiamo io qua se è in caso oppure già ti sento. E io che già sarò qua, te l'ascolto, non c'è problema. Ci sentiamo dopo allora, dai. Ok, a dopo, dai. Andà bene, ciao dopo.